21 agosto 391. È notte fonda. Il cielo stellato brilla di un misterioso incanto. Mentre l'instancabile cavallo tira il carro e io abbandono l'isola di Faros per affrontare l'istmo dell'Eptastadio, spira una brezza delicata, ristoratrice. Mi sento distrutto dalla stanchezza e oltre una settimana che dormo solo 2 o 3 ore. Quando ho raggiunto metà istmo, il fiotto di luce del faro lumeggia un cavaliere che avanza verso di me. Ci riconosciamo solo all'ultimo momento. Blocchiamo i cavalli. Lui torna un po' indietro. L'alta figura è coperta da un mantello chiaro. Gli occhi mi cercano con apprensione. Il volto è scavato. Olimpio, che è successo? Dove stai andando? Fuggo, Shalim, fuggo. Ho appena rifatto il sogno di un anno fa. Questa non è coincidenza. Devo spezzare la catena che collega il mondo dell'ignoto al Serapeo e l'anello di congiunzione sono io, io! È un tono intriso di disperazione. Ma la situazione negli ultimi giorni è migliorata. Non si è sentito parlare di altri disordini. Si sta aspettando la risposta dell'imperatore in uno stato di relativa tranquillità. Cerco di essere più convincente possibile perché il sacerdote è in uno stato pietoso. Non è così, Shalim. Questa è solo calma apparente. Un sogno così non può ripresentarsi a distanza di un anno con gli stessi identici colori, volti, atmosfere, sequenze, orrore. Non è possibile, Shalim. E dà uno strattone al suo cavallo che sta cercando di annusare il mio. Voi, piuttosto, a che punto siete con l'evacuazione della biblioteca? Abbiamo riempito la nave. E Zosimo aveva ragione, non ci sono entrati nemmeno 50.000 testi. Beh, è già qualcosa, Shalim. Addio, amico mio, salutami tutti e che gli dèi, i miei e il tuo possano proteggervi. Dove vai, Olimpio? Lontano, amico mio, a Roma, l'unica città dove ancora i miei dèi non sono stati scacciati del tutto. Fra poche ore parte una nave ancorata davanti al tempio di Iside Faria. Vi porto nel cuore. Volge il capo verso l'isola, sprona il cavallo e si allontana. Il cuore ha preso a battermi, forte. Sprono il povero animale attraverso la porta della luna. Devo andare a prendere i pazzi, a Teone e Zev. Quando il carro passa davanti alla tomba di Alessandro, regna la calma più assoluta. Sul marmo bianco sono state deposte delle grosse lucerne. Le fiamme mostrano le chiazze di sangue rappreso. Ma è l'unico segno dei disordini e delle violenze della scorsa settimana. Per le strade non circola quasi nessuno. Non ho incontrato nemmeno un soldato, solo qualche cane e parecchi gatti in amore che levano alle stelle i loro lamenti appassionati. È l'ora prima. Li ho trovati tutti e tre già svegli, con parecchi sacchi vuoti da portare alla biblioteca. Li avverto che nella nave di Zosimo ormai non entra più niente, ma per loro l'evacuazione deve continuare. Riempiremo tutte le nostre case, dice Teone mentre sale sul carro assieme a Zev, e sistemeremo un po' di sacchi anche nel magazzino di Alon. La sua voce vibra con la forza di chi non si arrende mai. Aspetto che dal vicolo laterale giunga Ipazia, ed eccola, in groppa al cavallo, mentre con una mano cerca di raccogliere i capelli dietro la nuca e con l'altra tiene le briglie, si mette a cavalcare davanti al nostro carro. La piazza davanti al Serapeo è deserta. I chiarori dell'alba svelano la maestosità del tempio. È tutto marmo. Bianco il portico rettangolare che ospita la biblioteca. Bianca e bluastra la parte superiore con le ampie finestre e la cupola su pianta rettangolare, così levigata che riverbera i primi raggi del sole. Davide è di guardia all'entrata sinistra del pronao, Erculiano a quella destra. I due ci vengono incontro e si occupano di portare i cavalli vicino alla colonna di Pompeo, lontano dalla piazza. Nell'aula del centro studi troviamo Nicandro, il nostro compagno Olimpio e Samuel ancora al lavoro. Hanno ripreso a esaminare l'enorme catalogo e non sanno come continuare. Nicandro mi chiede a che punto è la situazione sulla nave di Zosimo. Lo metto al corrente e scuote la testa, deluso. Si rivolge a Teone che si è appena seduto. Come proseguiamo? Abbiamo rivisto per sommi capi il catalogo e solo la sezione dedicata agli atomisti. La sua voce scordata si colora di incredulità. Solo questa sezione contiene ancora 45.000 volumi. Si mette le mani nei capelli, vampe di sconforto sul volto. Per non parlare della sezione dei paradossografi, in cui abbiamo scoperto testi di incredibile interesse, come i discorsi sovvertitori di Pitagora, l'opera intera. Solo citando gli autori potremmo impiegare mesi e mesi. E continua ad affondare le dita nella sua chioma rossa. Gli occhi paterni di Teone ci scrutano con uno sguardo bonario mentre stringe la mano di Ipazia. Nessuno di noi poteva prevedere tutto questo, Nicandro. Per 7 secoli siamo riusciti a intrufolarci tra le pieghe della politica e pur fra mille difficoltà, noi studiosi abbiamo dato un contributo al progresso umano. A noi di Alessandria è stato riservato il ruolo di ultimi dispensatori del sapere, della conoscenza, della libertà di poter professare una religione, della libertà di poter esprimere le nostre idee. A noi di Alessandria è stato riservato il ruolo di difensori della Biblioteca dell'Umanità. La voce profonda dello scienziato ha la stessa delicata sonorità di quella della figlia. Il prefetto e il vescovo stanno aspettando la risposta dell'imperatore. Sui vostri volti incupiti leggo segni di cattivi auspici. Eppure io sento che a questa biblioteca non accadrà nulla, lo sento con il mio cuore, so che la cupola della cattedrale cristiana del Cesareo, ammantata dalla nuvola nera di corvi, non aveva nulla a che fare con gli eventi di questi giorni e con il tempio di Serapis. Posa la mano libera sul cranio calvo e nonostante tutto consiglio di proseguire l'opera fin qui intrapresa. Continueremo l'evacuazione della biblioteca. La nave di Zosimo è al completo, dunque ognuno di noi a partire da oggi provvederà personalmente ogni giorno a riempire un sacco con rotoli e codici e a portarli nella propria dimora, in attesa di altra sistemazione. Pertanto adesso ci divideremo le sezioni, le materie e ci rimetteremo subito al lavoro, con o senza il permesso dei miei amici corvi. E sorride. C'è tanta forza in questo sorriso che ci rasserena. Anche gli occhietti obliqui di Zev hanno un fremito ammiccante. Ipazia ci scruta intensamente. Quello che stiamo facendo è necessario. L'impero romano e la Chiesa si stanno trasformando in un'idra impazzita che vuole mutare gli uomini in greggi, annebbiando la loro mente e togliendo loro ogni possibilità di ragionare e di scegliere il tempio dove recarsi per confrontarsi liberamente col proprio Dio. Ma il nostro dovere di studiosi, compagni miei, è soprattutto quello di continuare a indagare, portando nella nostra mente la luce di cui è impregnata questa biblioteca per poterla tramandare ad altri ancora. Un primo raggio dell'alba attraversa la finestra in alto e si diffonde sulle nicchie ancora colme di codici e rotoli. Un barbaglio fa risaltare sul volto di Pazia tracce di amarezza che lei sta tentando di scacciare dagli occhi. È l'ora sesta. Dalle grandi finestre in alto piovono i riverberi polverosi che illuminano il nostro instancabile lavoro. 2 ore fa si sono uniti a noi anche Valeria, Esichio e Ottavia. A Zeve è stato affidato il compito di coordinare tutto ciò che riguarda la filosofia. Ai pazzi all'astronomia, la fisica e la medicina, a Teone la matematica e tutte le altre discipline. I pazzi ed io stiamo lavorando nei pressi dell'entrata destra della biblioteca, nella sezione alchimia e medicina. Abbiamo catalogato e sistemato una parte delle opere delle altre due grandi studiose alessandrine, la regina Cleopatra e Maria Lebrea. Di quest'ultimo ho riempito un intero sacco di papiri con decine di schemi relativi alle sue invenzioni di apparecchi sperimentali per la distillazione, come il bagnomaria, il tribicos, l'alambicco per condensare il vapore, il kerotakis, l'apparecchio di riflusso per la sublimazione di sostanze e un trattato con la descrizione della manifattura dei farmaci. Questi papiri sono tra i pochi scampati ai roghi voluti dall'imperatore Diocleziano, il quale, mi spiega Ipazia, perseguitò senza pietà gli alchimisti alessandrini. Adesso stiamo analizzando e sistemando tutte le opere di Galeno, seguendo il testo del grande medico e filosofo sull'ordine delle mie opere. Comincio a infilare dei rotoli che mi porge la mia maestra in un nuovo sacco, ogni tanto do una sbirciatina. Riconosco la sua calligrafia. Srotolo il papiro, leggo la bellissima lingua greca che lei usa da vera maestra. Un testo di farmacologia? Scritto da te? e sollevo gli occhi. Lei tarda a staccare lo sguardo dal codice che sta esaminando, poi finalmente si decide, ma la vedo assente, assorta nelle sue riflessioni, mentre segue i fili di luce che la guidano a elaborare le sue teorie. Il nostro centro, dove risiede tutto, mente e anima, è qui, Shalim, nel nostro cervello, ne sono certa. Mi spiace per il grande Aristotele e anche per Platone, ma Galeno ha intuito più di chiunque altro. Tutto è collegato al cervello. Occhi, orecchie, naso, labbra, mani, nervi. Tutto conduce qui dentro. E affonda le dita di una mano nei capelli ricci. Mente e anima nel nostro cervello, Ipazia? Entrambe, Shalim. Intorno a noi un indistinto pullulare. La voce concitata e difettosa di Erculiano ci chiama, uno strano brusio. Erculiano grida, gettiamo sul tavolo il codice, il rotolo e corriamo verso il nostro compagno di guardia all'entrata destra della biblioteca. Il brusio cresce, aumenta man mano che usciamo in un clamore assordante. La piazza è gremita di una folla che va crescendo sempre di più. Sono migliaia, migliaia di persone e davanti a tutti Teofilo, il vescovo di Alessandria, circondato da un centinaio di soldati romani e da uno stuolo di monaci parabolani. Io, Ipazia ed Erculiano ci fermiamo sul podio all'ingresso del portico. La gente continua a riempire la piazza. La figura alta e possente del patriarca si avvicina mentre i soldati lo scortano. Sale pochi gradini e prima di rivolgersi alla folla lancia verso di noi uno sguardo sprezzante. Srotola un papiro, fa un gesto perentorio e ottiene il silenzio della platea. Fedeli cristiani. L'imperatore Teodosio ci ha risposto con sollecitudine e chiarezza. La voce sepolcrale risuona, possente nella piazza. L'imperatore dà il suo pieno appoggio alla nostra comunità cristiana. Egli non riconosce quella degli elleni e quella ebraica. Egli si è schierato solo dalla nostra parte. Dalla moltitudine si leva un urlo possente. La mano di Pazia cerca rifugio nella mia. Con voce reboante il vescovo riprende, dopo aver ottenuto di nuovo il silenzio, gli adoratori dei falsi dei, della filosofia, della magia, della dissolutezza, della cultura. 8 giorni fa costoro hanno contravvenuto a un ordine dell'imperatore, occupando questo tempio e scatenando odio e sangue. Oggi l'imperatore rende giustizia all'unico vero Dio nostro Signore. Oggi l'imperatore ci comanda di cacciare dal tempio i pagani che si sono ribellati al suo volere. Folla grida, entusiasta. Il vescovo afferra un piccone dalle mani di un monaco accanto a lui, lo leva in alto. L'imperatore ci comanda di distruggere tutti i templi dei falsi dei e noi cominceremo dal tempio di Serapis. La folla irrompe in un grido di approvazione. Centinaia, migliaia di picconi vengono innalzati. Clamore assordante. Mi stringo al petto la mia maestra mentre. Teofilo si gira, ci fissa, sprezzante, e comincia a muoversi verso le scale, proprio mentre dal tempio scende la piccola figura del filosofo sacerdote Ammonio. Ipazia si divincola dalla mia stretta e corre verso di lui. Il vescovo si blocca e ordina alla folla di attendere. Non mi resta che raggiungerli. Corro, corro, mentre Ipazia sta mettendo al corrente Ammonio delle decisioni dell'imperatore. Il volto rugoso del sacerdote è scavato, i suoi occhi si riempiono di dolore. Ipazia scuote la testa, sconsolata, poi si volge verso Teofilo. Penso che sarai d'accordo anche tu, vescovo, di evitare un altro bagno di sangue. Andremo noi di sopra a convincere la gente ad abbandonare il tempio. Dateci una clessidra di tempo. Il vescovo si fa largo tra monaci e soldati e si avvicina a noi tre, brandendo il piccone e lanciando uno sguardo diffidente a Ipazia. Le labbra gonfie e carnose dell'uomo tremano, ma col capo. Fa un cenno d'assenso. E allora Ammonio, Ipazia ed io ci inerpichiamo per i 100 gradini di marmo, raggiungiamo il tempio è di una bellezza sconvolgente, completamente tappezzato di statue e bassorilievi. Troviamo circa 200 elleni intenti a pregare sotto la guida dell'altro filosofo sacerdote, Eladio, il quale vedendoci ci raggiunge subito. È spaventato, così come tutte le persone inginocchiate a pregare. Ammonio gli spiega tutto. È impazzi a raggiungere l'altare. Ammonio e Ladio non possono chiedervelo, sono i vostri sacerdoti. L'imperatore ha deciso, dobbiamo abbandonare il tempio. Teodosio ha concesso il pieno appoggio al vescovo e ai cristiani. Ci è stato ordinato di lasciare immediatamente questo luogo sacro. Sotto ci sono migliaia di cristiani inferociti e alla loro guida il vescovo e i soldati. Non ci accadrà nulla, amici miei, ma dobbiamo andar via. Un accenno di supplica pervade la sua voce. Dobbiamo farlo anche per non far correre dei pericoli alla biblioteca che racchiude il patrimonio della conoscenza dell'intera umanità. Sui volti emaciati degli elleni serpeggiano dolore e paura. Ipazia prende per mano una vecchia, aiutandola a sollevarsi. La donna, dal volto pieno di rughe, indica la gigantesca statua di Serapis, poi il foro della cella. Vedere il sole che passava da lì e che illuminava il volto di chi protegge la nostra città mi dava la forza e il coraggio di vivere. Eladio la prende sotto braccio ed è il primo ad avviarsi verso l'uscita, proprio mentre giungono i soldati romani che si schierano a ridosso delle pareti del tempio. Dal basso si ode il clamore della folla. Gli elleni cominciano a defluire, molti piangono. Ammonio e Ipazia li invitano a sbrigarsi. Io faccio la guardia alla mia maestra, premo il braccio sinistro sulla mia ascella per sentire la presenza del pugnale. Dalla scala giungono grida di scherno mentre gli elleni abbandonano il serapeo. Siamo rimasti in pochi. Ammonio cerca di prendere dall'altare la testina di Giove Serapide, ma la voce reboante di Teofilo squassa il tempio. Non toccare niente! Le immagini dei falsi dei devono essere distrutte. Brandisce ancora il grosso piccone. Viene attorniato da gente che urla con atteggiamento minaccioso e facce stravolte. Ammonio non si decide ad abbandonare l'oggetto sacro. Resta in ginocchio con gli occhi pieni di lacrime. Ci facciamo largo tra urla e picconi. Ipazia gli strappa dalle mani la testina del dio e la deposita con delicatezza sull'altare. Ormai il tempio è pieno di cristiani inferociti. A forza dobbiamo trascinare via Ammonio sotto lo sguardo sanguinario del vescovo che si è avvicinato alla gigantesca statua. Teofilo solleva il piccone in alto. Il sole entra a fiotti violenti dalla finestra. Dalle scale giungono urla disumane. Il pulviscolo luminoso viene attraversato dalla punta di metallo che si abbatte sulla statua di Serapis, spezzandola. Un urlo di esultanza si leva dalla gente che si getta impazzita sulla statua, sulle vesti coperte d'oro, sulle braccia di metallo azzurro. Non riusciamo ad avanzare verso l'uscita. Andiamo controcorrente. Cerco di proteggere col mio corpo Ipazia. Devono aver acceso anche qualche fuoco. C'è puzza di bruciato. Per ogni passo avanti che riusciamo a fare, la forza inarrestabile della folla ci costringe a farne due indietro. Il vescovo comanda di distruggere tutto e la gente scarica la sua furia su ogni oggetto, sulle statue, sugli ornamenti d'oro e d'argento, sui marmi, sugli alabastri, sull'avorio pregiato. L'altare viene fatto a pezzi. La statua di Serapis resiste, è possente, ma 10, 20 picconi la intaccano, piovono frammenti dappertutto. La folla fa delle scale umane, colpisce, tutti urlano. Come indemoniati, facce stravolte da terribili smorfie, frantumano. Altri usano scale di legno, spezzano. Ognuno vuol partecipare alla distruzione della statua, dell'altare. Intravedo Teofilo che, facendosi il vuoto attorno, si accanisce col piccone a frantumare il mesolabio di Eratostene. Cerco di spingere Ipazia, di proteggerla. Ammonio riesce a trovare un varco tra la gente inferocita. Un fumo acre giunge dalle scale. Cominciamo a scendere, ma spesso veniamo ricacciati indietro. Da dove viene questo fumo? Shalim, da dove viene? La voce di Ipazia è accorata. Da dove viene Shalim? Mentre grida, le sue piccole mani artigliano le spalle di Ammonio, lo spingono a scendere. Andiamo controcorrente, è quasi impossibile proseguire. Nel tempio il clamore della folla è ossessivo. Chi sale è esasperato, vuol partecipare all'orgia. Ammonio riesce a intrufolarsi in un varco laterale. Riusciamo ad avanzare, man mano che scendiamo il fumo aumenta di intensità. Shalim, stanno dando fuoco alla biblioteca. Adesso Ammonio avanza con un'agilità impressionante, ci trascina. Per un attimo mi separano dai pazzi, ci sono dei maledetti picconi in mezzo a noi. Riesco a cacciarli di lato. Mi riunisco a lei, grida, il fumo è sempre più acre. Riusciamo a raggiungere il portico. I soldati romani sono schierati a protezione delle sole scale che portano al tempio. Nel porticato, davanti alle due entrate della biblioteca, nemmeno una guardia. Un fumo violento esce da entrambe. Corriamo verso quella di destra. Ci sono tutti. David, Erculiano, Nicandro, Olimpio, Samuel, Valeria, Esichio, Ottavia, attorniati e immobilizzati da tantissima gente armata di torce e picconi. E mio padre, dov'è Teone? Ipazia grida mentre Valeria cerca di avvicinarsi a noi. Proprio in questo momento, dall'interno fuoriescono una trentina di monaci armati di torce accese, facce raggianti. Dietro di loro le fiamme stanno divorando la biblioteca. Ipazia invoca Valeria, la folla urla, la piazza è gremita. Dietro di noi un clamore assordante. La ragazza grida per farsi sentire. Ci hanno costretto a uscire con la forza. Hanno dato fuoco a tutto, a tutto. Teone non voleva uscire assieme a Zeus, si è messo a lottare. Sono caduti. I monaci ci hanno trascinato. Abbiamo lottato, non c'è stato niente da fare. Il viso della ragazza è sconvolto, la voce è disperata. Ipazia sguscia via, si infila in mezzo ai monaci, rimasti a guardia dell'entrata, corre verso le fiamme, la rincorro, le grido di fermarsi, mi libero di un invasato che cerca di bloccarmi, la raggiungo proprio mentre lei cerca di farsi largo tra due monaci. Uno dei due, alto e possente, la afferra per i capelli, la strattona, lei si difende. Sfilo il pugnale, lo appunto alla gola del figlio del demonio che molla la chioma della mia maestra. Nicandro e Samuel sono riusciti a liberarsi e sono corsi in nostro aiuto. Il fumo ci avvolge, l'indemoniato trema, ha lasciato cadere per terra la fiaccola accesa, si inginocchia. Continua a tenergli premuta la punta del pugnale sul collo. Ipazia mi stringe il braccio libero e piange. Guardami, maledetto, stai per crepare per mano d'un cristiano. Il monaco storce gli occhi, mi fissa con uno sguardo sbarrato, respira a fatica. Chi ti ha dato ordine di appiccare fuoco alla biblioteca? Affondo il pugnale, un rivolo di sangue gli spunta dalla gola. Il vescovo Teofilo, abbiamo obbedito a lui. Lo lascio libero di fuggire, prendo Ipazia tra le braccia, trema. Nicandro ci racconta. Sono arrivati all'improvviso, erano un centinaio di monaci armati di torce, di catini, di pece e resina. In pochissimo tempo hanno imbrattato tutto e cominciato a dar fuoco con sistematicità, ritirandosi verso l'uscita. Ci hanno legati e malmenati, Teone e Zev. Hanno cercato di resistere. Ci hanno trascinato via mentre appiccavano il fuoco al centro studi. Hai il volto pieno di ferite e di sangue, la voce trabocca di rabbia, di dolore. Teone e Zev difendevano come leoni i rotoli che quei maledetti gli strappavano dalle mani. Ipazia piange. La stringo al mio petto. Shalim, non potrebbero essere riusciti a raggiungere i sotterranei. E si rifugia con i suoi occhi disperati nel mio affanno. Le accarezzo i capelli. Da quello che ha detto Nicandro, quei maledetti hanno cominciato l'opera di distruzione proprio dal centro studi. L'entrata ai sotterranei è lontana. Dio! E urlo al cielo, al fuoco, a quel Dio che non può volere tutto questo. Il fuoco divampa sempre di più. Il fumo e l'odore acre della pergamena e del papiro ormai avvolgono tutto il pronao. Siamo costretti ad arretrare. Anche la fiumana tumultuosa è indietreggia. Nuvole gigantesche si levano in alto, oscurando il sole. In mezzo alla nuvolaglia, dalle scale, cominciano a defluire i soldati e la gente armata di picconi. Scortato dai soldati, in mezzo al brulicame infernale, il vescovo, mani protese al cielo in segno di vittoria, viene acclamato dalla folla. Riesce a ottenere un po' di silenzio. Dio e l'imperatore lo hanno voluto. Ma questo è solo l'inizio. Ad Alessandria ci sono almeno altri 40 templi ove si venerano i falsi dei. Dobbiamo distruggerli tutti. Seguitemi. Lo vogliono Dio e l'imperatore. Un urlo assordante si leva dalla folla, si unisce al fumo, al fuoco. L'infernale processione si avvia e abbandona la collina di Rakotis. La piazza comincia a svuotarsi. Tutto il nostro gruppo assiste impotente al rogo. Dalla parte della colonna di Pompeo giunge un uomo a cavallo e si ferma accanto a noi. È Claudio Claudiano, il poeta. Ci raggiunge tutto stralunato, osserva esterrefatto le rovine fumanti del tempio. Ipazia, Shalim, tutto questo è follia pura. Vengo adesso dal porto. Stanno attaccando e distruggendo il tempio di Iside Faria. Urlavano di voler andare a distruggere l'altro tempio, quello a occidente dell'isola. Il tempio di Posidone, esclama Valeria. E la nave di Zosimo è ancorata lì davanti, commenta Nicandro disperato. Poi, rivolgendosi a me, vai tu, Shalim, e porta con te i pazzi. A lei non deve vedere il corpo di suo padre. Deve ricordarlo com'era stamattina. Restiamo noi qui a vegliare le ceneri. I pazzi è distrutta. Non ha volontà. Scuote la testa alla proposta di Nicandro, ma si lascia guidare dalla mia mano verso i cavalli legati nei pressi della colonna di Pompeo. Quando raggiungiamo gli animali, i pazzi avvolge il capo verso il tempio. Dal portico sale al cielo una nuvola nera, gigantesca. I suoi occhi mi fissano, disperati, poi cercano l'entrata ai cunicoli sotterranei. Testardi baluginii di speranza non vogliono saperne di spegnersi nello sguardo incollato all'entrata segreta, mentre il suo cavallo nero l'accarezza con il muso sfiorandole il volto bagnato di lacrime. Ipazia, ormai non abbiamo nulla da perdere, proviamoci dunque. Hai ragione tu, non si sa mai. Dai, sbrighiamoci e ci affrettiamo verso la piccola costruzione accanto all'impianto di ispezione della rete fognaria. Sollevo la lastra di marmo, alzo la grata di ferro, faccio passare avanti Ipazia, chiudo la lastra alle mie spalle, frugo nel ricettacolo delle lucerne, ne prendo due, le accendo, ne porgo una a lei. Ci affrettiamo, è come se sentissi il battito del suo cuore. La sua speranza mi sta contagiando e man mano che ci avviciniamo dentro di me, prego affinché Teone e Zev ce l'abbiano fatta. Ci mettiamo quasi a correre, non si sente puzza di fumo. Con un fiatone carico di speranza raggiungiamo la fine dei sotterranei, sotto gli scalini che conducono alla porticina, al di là della quale c'è la parete di marmo della biblioteca con il disegno e rilievo dei ciclopi che forgiano le armi ad Achille. Non c'è nessuno. Saliamo i gradini. Ipazia si appoggia alla porticina, incolla il suo corpo al ferro, bacia la ruggine. Addio, padre. Mi hai dato la dolcezza della mamma e la tua forza. Ne farò buon uso, te lo giuro. E piange e bacia la lastra di ferro. Il tuo sacrificio non sarà vano, padre. Tutto quello che mi hai insegnato io lo scriverò di nuovo. Lo insegnerò agli altri, lo divulgherò, il centro studi continuerà, te lo giuro. È disumano dover trattenere le lacrime, ma mi faccio forza. Stringo la mia maestra in un abbraccio traboccante d'affetto. E io non ti abbandonerò mai, Ipazia, te lo giuro, sulla memoria di Teone e su quello del povero Zev. Ciao, vecchio mio. Io so quale dolcezza si nascondeva dietro quegli occhi furbi. E depongo anch'io un bacio sulla lastra di ferro impregnata del calore dell'incendio. Prendo Ipazia per mano. Cerco di infonderle coraggio con la forza delle mie dita. La costringo a seguirmi. Raggiungiamo la porta della luna percorrendo la via che costeggia il canale occidentale. Quando attraversiamo via Canopica, la grande strada è piena di gente che corre come impazzita verso il tempio di Helios, torce e picconi in mano, clamore, urla, templi incendiati. E riusciamo ad attraversare l'istmo dell'Eptastadio a fatica, andiamo controcorrente. Dall'isola di Faros stanno tornando centinaia di persone armate di fiaccole e picconi. Fra loro decine e decine di monaci che urlano inneggiando alla gloria di Dio. Superato l'istmo, la strada è più ampia. Ne approfittiamo per spronare i cavalli, ma incontriamo un'altra fiumana di gente e monaci. Sempre armati di fiaccole e picconi che giungono anche dalla parte occidentale, dalla zona dove è situato il tempio di Posidone. Il cavallo di Pazia gonfia i muscoli, volerebbe sulla gente se lei non lo tenesse a freno. Avanziamo a fatica, scorgiamo la sommità del tempio, un nero pennacchio che si sprigiona verso il cielo. Ipazia sprona il cavallo. Io faccio altrettanto. Rischiamo di travolgere i maledetti che urlano, abbandoniamo la strada, ci inerpichiamo sulla collina ed ecco il tempio di Posidone in fiamme. ma un fumo ben più alto si leva al cielo. La nave di Zosimo sta bruciando in un gigantesco rogo. Oh, Ipazia cerca i miei occhi e disperata sproniamo i cavalli, maledetti, maledetti, maledetti. Dio proteggi Zosimo e Usenzio. I cavalli volano sulle asperità. Veniamo investiti dal fumo, attraversiamo quest'altro Ade, balziamo a terra. Alle nostre spalle il tempio brucia dinanzi a noi. Sotto un sole cocente, la nave di Zosimo arde. Non si vede nulla, è solo fuoco e fiamme. Siamo circondati da catini di pece vuoti. Il crepitio è straziante. Codici e rotoli preziosi distrutti per sempre. Grido. Il nome di Ausenzio, di Zosimo. Non si riesce a scorgere niente, solo fumo e fiamme, vampe verso il cielo. Qualche alito di vento riesce a fendere la nuvolaglia, a diradarla, e lì, nel rogo, Zosimo e Ausenzio abbracciati in una sola torcia umana. Ipazia s'aggrappa al mio braccio, trema come me, piango per i miei amici, per un mondo che sta crollando. Dio non può volere tutto questo. La voce di Ipazia trabocca di disperazione, il bellissimo volto rigato dalle lacrime, gli occhi persi tra le fiamme. Recita frammenti di preghiere antiche. Io invoco voi, potenti santi, gloriosi, seguaci del grande Dio, voi abitanti del caos, dell'abisso, del profondo della terra. E piange ancora. Singhiozza, volgendo lo sguardo al cielo, seguendo le nuvole di fumo. Voi che siete negli angoli del cielo, che abitate le fosche nubi, voi che attraversate l'aria, voi che ruttate fiamme di fuoco, voi che camminate sul mare, voi che solcate il cielo, voi che rivelate gli angeli. Ipazia non smette di piangere. Libratevi nell'aria, assieme ad Ausenzio, a Zosimo, a Zev, assieme a Teone, mio padre, voi che rivelate gli angeli, voi che solcate il cielo. Con una sonorità struggente, la voce accorata di Ipazia accompagna il crepitio delle fiamme. Che tutto questo possa essere fermato ora, ora e per sempre. Che la storia sia modificata ora e per sempre. Così sia, così è.